La siccità è ormai un problema gravissimo. In Italia centro-settentrionale è crisi idrica. La portata dei fiumi è diminuita drasticamente. Le falde acquifere si sono abbassate. Presto l'acqua sarà razionata. L'agricoltura è al tracollo. Qual è la vera causa di questo prolungato periodo di aridità? La guerra ambientale è in atto, attraverso cui si distruggono le perturbazioni e si impediscono le piogge. Ogni giorno sono buttati milioni di euro con cui si potrebbero risolvere tutti i problemi che affliggono l'Italia. Un fiume di denaro è usato per desertificare e contaminare. Milioni di euro, con il silenzio assenso di tutte le autorità, a cominciare dal Presidente della Repubblica fino ai sindaci da operetta. Milioni di euro, con l'omertà di giornalisti, meteorologi ed ambientalisti. Per il mese di maggio sono previste elezioni amministrative. Ma noi non voteremo chi ci avvelena e chi distrugge l'ambiente e l'economia con i soldi estorti ai cittadini da una banda di criminali.